AVS Media Demo. Sul tendardo, il suo messaggio, vediamo, leggiamolo. Cosa dice? Cosa dici? Il lavoro è un diritto e non un privilegio. Si parla tanto dei ceti medi che sono in crisi. È vero che anche le persone che fino agli anni 80 potevano permettersi un tenore di vita, non dico elevato, AVS ma più Media dignitoso, Demo. Oggi annaspano. Di garanzia, che avevano un minimo di garanzia, sicurezza, oggi non è più assolutamente così. Ma quello che lamentiamo non è solo la nostra situazione, noi bene o male siamo arrivati, se non a molto, però AVS Media Demo. Un minimo di obiettivi a raggiungere. Il problema è soprattutto per i nostri figli, per i nostri giovani che devono andare via, ma non si sa più neanche dove andare via, visto che tutto il mondo, che AVS Media Demo. In televisione sentiamo spesso allarmi, emergenza, crisi, non si capisce bene da dove arrivi poi questa crisi, no? Chi sia veramente responsabile. Però percepiamo un senso di insicurezza. Quali sono le parole, i termini che mettono veramente AVS timore Media Demo. nell'ascoltatore, nel cittadino? Di che cosa abbiamo paura oggi? I poteri finanziari, politici e non ultimo AVS Media Demo. Quelli che hanno avantieri quelle agenzie di aiutami, le agenzie di rating. Di Ma a rating. che Ma chi ci sta dietro queste agenzie di rating? Perché pare che gli stessi soci di queste agenzie di rating AVS Media Demo. Sono azionisti delle grandi società. Per cui hanno tutto l'interesse a screditare interi paesi. Certo. Quindi il messaggio è che non possiamo essere schiavi delle agenzie di rating. Mancherebbe. Assolutamente no. AVS Media Demo. Dobbiamo riappropriare della nostra vita e del nostro destino. Devono andare tutti a casa. Governo, opposizione, gente nuova, onesta. Gli onesti di sempre. Grazie. Grazie.